Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Era uno dei denti centrali inferiori. Al momento fui presa dal panico profondo e da gravi domande. Io ero a Trieste. Sarebbe venuto il topo a portarmi qualche lira anche se ero in vacanza? Mi avrebbe trovata? Che inopportuno il dente da latte. Come poteva essersi staccato proprio allora? Mi chiamo Caterina Gasperini, ho 37 anni, abito a Londra e lavoro per l'Air France, l'aerolinea francese. Erano, credo, 12 anni che non sentivo definire una linea aerea aerolinea. L'aerolinea francese. La storia di Caterina non parla di aerolinee, parla di un piccolo episodio che, diciamo, nella mia zona, non so se è una questione di zone dell'Italia, non lo so. Tiziano, in Umbria si davano i soldi per i denti da latte, dappertutto, Rudy, dappertutto. Quindi una storia che più o meno è capitata a tutti quando cadeva il dente e ti dicevano viene... Era in alternativa al topolino, c'era qualcos'altro di solito. Dalle mie parti non era il topo, era un mago, qualcosa del genere, che ti portava i soldi in cambio del tuo dente da latte. Riguarda quello, riguarda la paura di una bambina che, essendo in vacanza, il topo non la trovi, e soprattutto riguarda la sorpresa per un regalo di cui non capisci il significato. 349-238-6666. Voi siete qui, @radio24.it. Se vi è mai capitato di ricevere un regalo, non per forza dal topo, un regalo qualunque che qualche significato ce l'aveva o sembrava avercelo, o magari non ce l'aveva, ma per voi qualche significato ce l'aveva e non l'avete capito. 349-238-6666. Chiara mi scrive: una volta una bambina mi regalò una pigna verde tutta appiccicosa dicendomi di conservarla perché era importante. Ce l'ho ancora da qualche parte, ma temo non volesse dire proprio nulla. Però dopo qualche anno ancora mi ricordo di lei. Forse era importante per questo. E questa è una possibilità. 349-238-6666. È la prima puntata del mese di ottobre di Voi Siete Qui. Questo è un programma in cui ogni giorno raccontiamo una storia. Lo facciamo chiedendovi di raccontarla per primi voi, inviandola a voisietequi@radio24.it, una storia di una pagina che racconti qualche cosa di voi. Un piccolo episodio o un grande episodio, ma non la biografia, non riflessioni sparse, non un diario, non è un concorso letterario, dico tutto quello che non è un concorso letterario, non si pubblica niente, non diventerà un libro, semplicemente la vostra storia verrà raccontata tutti i giorni in diretta da qui alla fine della stagione. Voi siete qui, @radio24.it, vi ricordo, una sola pagina, un piccolo episodio della vostra vita che racconti qualcosa di voi. È proprio il caso di Caterina, che adesso ha un'altra vita, vive a Londra, lavora per un'aerolinea francese, però è nata a Caracas e durante una vacanza a casa della nonna a Trieste le è successo questo. Oggi sono passata dalla vetrina di un negozio e ho visto qualcosa che mi ha portato indietro di una trentina d'anni. È venuto un ricordo ad abbracciarmi, in quel modo in cui solo certi ricordi ci riescono, siano essi felici o sgradevoli, portandoti indietro con tutti i sensi, perfino con il tatto. Avevo 6 anni ed ero a Trieste a trascorrere le vacanze della nonna Elvira. Al tempo vivevamo in Sud America, in Venezuela per essere precisi. Erano le vacanze estive, quelle, e una sera, mentre suonavo un piffero regalatomi da qualche parente, uno dei miei denti da latte si staccò dalla gengiva e andò a finire proprio dentro il piffero. Io sono nata in Venezuela, quindi abitavamo lì. I miei genitori sono emigrati perché mio padre lavorava lì, e in quegli anni quelle che erano le mie vacanze, perché andavamo ogni anno in Italia, perché i miei appunto andavano a trovare i genitori. Era uno dei dentini centrali inferiori. Al momento fui presa dal panico profondo e da gravi domande. Io ero a Trieste. Sarebbe venuto il topo a portarmi qualche lira anche se ero in vacanza? Mi avrebbe trovata? Se il dente era finito dentro il piffero, come avrebbe fatto il topo a valutarlo, soppesarlo e portarselo via? Mia nonna diceva sempre che il topo ci faceva le collane coi dentini e pagava a seconda della bellezza e della qualità del dente. Avrebbe dovuto prendere anche il piffero con sé? E come avrebbe potuto trasportarlo così pesante e grande com'era? E soprattutto il mio pensiero era: quanto inopportuno era stato il dente da latte, come poteva essersi staccato proprio in quel momento. Con terribile angoscia andai a cercare gli adulti per raccontare la tragedia. Era sera, tarda, avevamo già cenato. I grandi stavano sorseggiando un grappino. Io entrai con le lacrime. Naturalmente tutti mi rassicurarono che il domicilio estivo provvisorio non era un problema in quelle circostanze. Il topino aveva un motore di ricerca potente e avrebbe trovato il dente. Avrebbe saputo che apparteneva a Caterina, che era in vacanza a Trieste e il cui domicilio permanente era a Caracas. E sarebbe venuto quella sera stessa con il contante. Io andai a dormire incredula e invasa da terribili dubbi. L'indomani mattina, a fianco alle pantofole, c'erano una banconota e un pacchetto. Il mio stupore era più grande della realtà stessa. Era venuto. Era proprio venuto. E ce l'aveva fatta con il piffero. Topo straordinario. Con mani tremanti aprì il pacchetto. Il contenuto mi sconcertò profondamente. Il regalo era uno di quegli aggeggi per affettare le uova sode. Sì, un taglia uova sode. Naturalmente dopo da adulta ho capito che quella notte lì era domenica e non c'era assolutamente niente in giro da comprare qualcosa per darmi, tipo un giocattolo, quindi però non sono mai riuscita a domandare a mia nonna o ai miei, insomma, perché proprio un tagliauova, come, cioè, perché è venuta questa idea. Poi mia nonna è morta ed a me è rimasta sempre questa domanda. Ma perché il topo aveva pensato che un tagliauova sode mi sarebbe venuto utile a Trieste? Perché essendoci tante altre cose che poteva portarmi in regalo, aveva scelto proprio quello strumento. Forse voleva suggerire che aveva un uso diverso, che dovevo usare la mia creatività. Il topo però lo sapeva che io avevo 6 anni, doveva saperlo. O forse era un supplente triestino che non se ne intendeva di giocattoli. Sì, un supplente più vecchio. Ancora oggi, quando vedo un taglia uova sode, torno bambina. E con i miei 6 anni torna anche il sapore di quella miscela di stupore e disappunto, lo stesso fascino della domanda rimasta senza risposta. Caterina era una bambina quando cercavo un senso al taglia uova sode, ma non era poi così strana. Non bisogna avere visto Blade Runner per sapere che tutti cerchiamo una ragione alle cose che ci succedono, che siano grandi o piccole, e soprattutto se hai 6 anni. La cosa che però mi ha più colpito del suo racconto è stato proprio il taglia uova sode. E non perché sia un oggetto particolarmente bello o utile, ma perché anche io ne ho avuto uno. E anche io non l'avevo comprato. Forse nessuno ha mai comprato un taglia uova sode. Io l'avevo vinto a un banco di beneficenza a Romentino, al mio paese. Una di quelle cose che in paese ci sono e nelle città no, i banchi di beneficenza. Io avrò avuto 10 anni e avevo giocato 500 lire. E mi era capitato un numero, dovevo star lì e bisognava aspettare l'estrazione. Io non sapevo nemmeno cosa fosse un banco di beneficenza. Cioè, sapevo che se andava lì e c'erano degli oggetti che se volevi giocare li potevi vincere. Ma era il concetto che mi sfuggiva. Solo anni dopo ho ricostruito il meccanismo per cui alcune persone, per raccogliere denaro per chi ne ha bisogno, raccattava oggetti di poco costo e li metteva in gioco per denaro. E che quindi loro erano sicuri di guadagnarci. E che quindi noi eravamo tutti dei donatori. Ecco, io questo non lo capivo. Per me quella era una lotteria, dove c'era la fortuna da una parte e la sfortuna dall'altra, dove pescando il numero giusto sarebbe stato tutto bello, pescando quello sbagliato invece sarebbe stato uno schifo. Io alle lotterie ho sempre perso, e forse è per quello che non sono mai diventato un giocatore d'azzardo e non ho mai nemmeno provato con il lotto, perché non ho mai vinto niente, e quindi niente mi ha fatto pensare che potesse essere piacevole giocare, tranne quel taglia uova sode. Sentire il mio numero pronunciato al megafono dal tizio del carrozzone è stato come la chiamata mistica di John Belushi nei Blues Brothers. Mi ha fatto sentire un prescelto. Tutti mi guardavano e io sollevavo il biglietto in aria come se fosse la Coppa del Mondo di calcio. Ero felice, di una felicità assoluta, pulita. Come quella dei cani quando torna il padrone a casa e loro saltano senza senso e corrono dalla gioia. Ecco, io ero stato chiamato dal destino. Tra tutti, il caso aveva scelto me. E così potevo ritirare il premio. E non sapevo cosa mi aspettasse, ma qualsiasi cosa fosse, era per me e solo per me. Perché io avevo dato 500 lire e scelto il numero giusto. E quando mi diedero un taglia uova sode, rosso e bianco, io non capivo nemmeno di che cosa si trattasse. E ciò me lo rendeva ancora più misteriosamente pregiato. Non mi importava niente degli altri premi che stavano consegnando. Cose come palloni da calcio, stereo, biciclette, perché io avevo chiuso le comunicazioni con il mondo. E andando verso casa, studiavo quell'oggetto e cercavo di comprenderne il funzionamento e immaginare il modo in cui l'avrei usato. Quanti panini con prosciutto, maionese e uova sode mi ero fatto finora. E mai nessuno con vera soddisfazione. Ecco perché. Era perché mancava un attrezzo che tagliasse in modo sottile e preciso l'uovo, di modo da mettere le fette in maniera ordinata ed efficace. Ecco, ora avrei potuto farlo. Arrivai a casa. Cucinai subito un uovo, anche se erano le 5 del pomeriggio. Aspettai che si raffreddasse e lo tagliai. Vennero fuori fettine così perfette che pensai che forse c'era un senso ancora più profondo in quel premio, che volesse, chissà, suggerirmi qualcosa. Forse che esiste un oggetto per ogni situazione, così come una parola per ogni persona o una reazione per ogni gesto. O forse mi voleva insegnare la precisione e la professionalità per ogni singola operazione, che fosse in cucina o in strada, a scuola. Oppure ancora che il rosso e il bianco stanno molto bene insieme. Io passai giorni a cercare una vera risposta, ma non venni a capo di niente. Mi accontentai di conservare il taglia uova sode come un prezioso simbolo di vittoria. E ancora oggi, se voglio ricordarmelo, non devo fare altro che andare in cucina di casa dei miei. Da quella prima volta in cui l'ho usato, nessuno l'ha mai più toccato. E lui non si è mai più mosso da sopra il frigorifero. I'm gonna build a mountain. Ed è nata una diatriba ovviamente su chi era che portava i soldi dei denti caduti, dei denti da latte caduti ovviamente da bambini. Simone dice: a Verona da me veniva Santa Pollonia. Ammazza, proprio in pompa magna, direttamente un santo arrivava. In Trentino il ragno portava i soldi. E poi ancora Daniele: in Sicilia, a Palermo, San Nicola, che sotto forma di coccinella portava i soldi per i dentini caduti. Da piccino mi chiedevo come fosse possibile. Questo chiedo, se lo credo, se lo chiedessero tutti. E prima tra tutti se lo chiedeva Caterina, che non aveva solo il problema dell'essere, diciamo, fuori sede, ma che il dente fosse finito in un flauto. Pronto, Caterina? Pronto, ciao Matteo. Ciao, come stai? Bene, grazie, tu? Io sto benone, grazie. Senti Caterina, mi spieghi questa cosa per cui tu sei nata a Caracas e poi andavi in vacanza a Trieste. Quanto ci sei rimasta a Caracas? Allora, cioè, la cosa era che mio padre lavorava lì. Mm-hmm. Beh, lo immagino che tu, insomma, da neonata non ti fossi trasferita a Caracas. Io sono nata appunto perché la cosa della vita, erano lì. Mm-hmm. Poi siamo tornati in Italia, però mio padre si era innamorato del tropico e quindi niente, poi siamo addirittura tornati in Venezuela, siamo rimasti lì, io ho fatto lì la scuola media e poi da adulta sono tornata a Trieste per fare l'università, però diciamo che io sento forse metà, potremmo dirlo, perché ho trascorso molti anni lì. Ma che cosa faceva tuo papà, per curiosità, scusami? Papà era ingegnere. Quindi costruiva tempo, le dighe e i ponti? I ponti anche edifici. E in America, si sa, Venezuela poi soprattutto era un paese con tante opportunità. Infatti l'immigrazione italiana lì è grandissima, è forte, anche quella spagnola. Uh-huh. E niente, le opportunità di lavoro più che altro che avevano fatto terminale, insomma, che loro certo, certo, che stessero là. Senti, e noi però in vacanza andavamo ogni anno perché i miei nonni abitavano lì a Trieste. Sì, perché tu sei triestina, quindi di origine, Caterina. Diciamo, non saprei se sono di origine, perché sono nata a Caracas, però. Però insomma, appunto, diciamo, i tuoi genitori sono di origine triestina. Sì, sono e adesso però, nomi, insomma, sì. Caterina, scusami, e adesso però sei a Londra, giusto? Da 10 anni? Sì, abito qui. Dove lavori per l'aerolinea francese? Per l'aerolinea francese, devo premettere che forse il mio accento appunto non è perfettamente italiano, perché appunto contaminato da un po' dell'accento sudamericano, perché parlo anche spagnolo, quindi... Certo, giusto, quindi... Questa roba dell'aerolinea... La compagnia aerea in spagnolo si dice aerolinea, giusto? Forse per quello, sì. Ok, senti, ma quindi è proprio che, diciamo, la vostra famiglia tende ad uscire dal paese, sostanzialmente? Sì, siamo zingari da generazioni. Io... Chissà per quanto rimarrò qui, non lo so, cioè Londra non è che sia una città facile, lavoro c'è, quindi per ora sono qui. Mi racconti come ci sei andata, perché, quando? Sono venuta perché ero un po' stufa della vita che facevo in Venezuela, ero inquieta, pensavo così, che anche per la lingua, ho pensato che... Volevo studiare l'inglese, sarebbe più facile se vado lì. E quindi sono venuto qui con il mio ragazzo, e poi qui naturalmente ti rendi conto che non è mica così facile, non è che fai un corsetto d'estate in 3 mesi per farli, sì. Quindi ci è voluto, non so, essere passato il primo anno, poi ho trovato lavoro, ho detto poi dai, rimango un secondo anno, e niente, così sono rimasta. Ma e quindi adesso esattamente cosa fai? Che cosa fai, se si può sapere, se non è top secret, per l'aerolinea francese? Allora, io scrivo lettere, non d'amore purtroppo, per clienti, per i legali che rappresentano i clienti che hanno subito disagi e incidenti durante il viaggio, insomma, sia cancellazioni, ritardi. Poi ci sono però anche cose non, diciamo, tanto normali, tipo? Che succedono, e loro scrivono e noi dobbiamo occuparci di rispondere in un modo... Cioè, in sostanza tu scrivi lettere di scuse? Lettere di scuse, esatto, e quando la legge è da parte loro, dobbiamo appunto pagare, no? Quando... Ma mi fai un esempio, risponde. Mi fai un esempio di una lettera che hai scritto oggi, ieri, venerdì? Allora, di quelle normali ti dico, normalmente la legislazione europea offre dei lineamenti, no? Diciamo, per proteggere i passeggeri, i viaggiatori. Se tu hai un volo che ha subito una cancellazione, tu potresti ricevere una compensazione, cioè non so se 100 euro, 800 euro, dipende. Ah, ok, okay. Un bonus più o meno. Esatto, però poi ci sono lettere come... non so, adesso magari lui ascolta il programma, sarebbe fantastico. Un signor Maris che ha conosciuto una donna durante un volo Parigi in Roma, e questa donna era bellissima, lui si è innamorato e ha cominciato a chiamare noi per avere informazione su di lei, telefonico, un diritto di lei. Ma voi non potete darlo? No, ha proibito. Quindi noi purtroppo cercavamo di spiegarglielo nel migliore dei modi. Guardi, no, purtroppo... Qual è il migliore dei modi? Non si può fare, banalmente. Oppure tu ti fingevi... Oppure, scusa, fai così, che tu ti fingi lei e così cominciate a immaginare una corrispondenza. E lo fate viaggiare un sacco su Roma-Parigi. Quindi, no, però quello lì è stato bello, perché poi abbiamo dato il telefono di lei, ma abbiamo contattato lei e dato l'indirizzo di lui, certo. Quindi dicendo, vabbè, se lei considera... Quindi però non so poi come andrà a finire, no? Ho capito. Insomma, al di là delle cose normali, capitano anche delle cose come queste. Caterina, senti, io ti ringrazio moltissimo per la storia, per la chiacchierata. E vabbè, continui ad ascoltarci in podcast, allora. Certo, grazie ancora per il libro. Grazie mille, ciao, in bocca al lupo anche a te, ciao, grazie. Nella foto che ci ha mandato, che trovate sempre alla pagina di Voi Siete Qui sul sito di Radio 24, Chiara si è fatta un autoscatto, chiaramente si è fatta un autoscatto probabilmente in casa, ma Chiara non è una di quelle a cui piace mandare le proprie foto. Si vede lontano un miglio, perché c'ha degli occhiali da sole enormi che le coprono gli occhi, che poi tra l'altro hanno delle lenti azzurrate, quindi sono un po' quelli che ti regalano, che ti compri per fare un po' il simpatico. E Chiara, secondo me, Caterina secondo me non aveva voglia di mandare questa foto, nemmeno di farsela, quindi ha detto vabbè, metto sti occhiali così almeno sembra che c'aveva un po' più voglia. È probabilmente in casa, c'è una luce che non saprei definire, ma credo sia abbastanza ancora estiva, e nonostante tutto ha la faccia molto simpatica. Dono. Quanto viene dato per pura liberalità, per concessione disinteressata o abnegazione, per grazia divina. Frutto. Dote spirituale o fisica. Privilegio, prerogativa. Etimo, dal latino, donum. Manca il secolo però, eh? Vabbè. Sul profilo Twitter del programma qualcuno mi scrive a proposito di regali che non sono stati compresi. Leonardo: un giorno avevo 5 anni, mi dissero che mi regalavano una sorellina. Adesso ancora, dopo 33 anni, non l'ho capito. 349-238-6666. Vi ricordo, ogni tanto è utile che anch'io faccia un giro sulla pagina del programma, perché vi ricordo che sulla pagina, andate sulla pagina di Radio 24, sul sito di Radio 24, cercate Voi Siete Qui e trovate uno stralcio del racconto di oggi, la foto che vi ho appena descritto, trovate la mappa che stiamo continuando a ricomporre, basta cliccare su Voi Siete Qui, c'è il logo con la scritta, il puntino rosso, e la novità è che c'è la playlist. La playlist c'era anche l'anno scorso, con tutti i brani, i nomi dei cantanti e del brano che abbiamo mandato. Quest'anno in più c'è che se ci cliccate sopra si apre, adesso vediamo, dovrebbe aprirsi, eccola qua, si apre una pagina, la pagina di YouTube, in cui potete sentirvi direttamente il brano. 349-238-6666. Ah, c'è ancora l'ebook scaricabile, volendo, se uno non l'avesse ancora fatto, 100 racconti dall'anno scorso, l'ebook di Voi Siete Qui, il primo programma. No, adesso siamo il primo, non lo sappiamo, Tiziano. Poi non facciamo quelli che sono i primi ad aver fatto. Abbiamo fatto l'ebook, che è lì da un po'. Mi scrive Carlo da Bergamo che Santa Pollonia è la patrona dei dentisti. Perché me lo scrive? Ah, perché prima mi ha detto che Santa Pollonia portava... Ok, perfetto. Leggo messaggi senza nemmeno sapere bene un significato. E finché se ne parla tra di noi, diciamo, a proposito di regali e di dentini, uno dice, vabbè, insomma, capita a tutti di ricevere i regali e di non capire il perché. Poi ne parli con Tiziano e lui ti tira fuori sempre qualcosa di più sensato. In questo caso mi ha parlato di questo saggio, che si chiama Saggio sul dono, scritto negli anni 20, esattamente nel 1924, da questo sociologo, antropologo, perdonatemi, che si chiama Marcel Mauss, che parla del perché, della differenza tra il modo in cui la nostra società, società occidentale direi, e le società arcaiche danno e ricevono dei doni. E in sostanza si tratta di questo. Nella nostra società i doni si fanno e si ricevono generalmente in determinate ricorrenze, e il dono si pone quindi come eccezione alla regola, che è quella di tenere le proprie cose per sé. L'antropologia ci ha invece offerto molti esempi di società, soprattutto in Oceania, presso le quali il dono rappresenta uno degli elementi fondanti delle società stesse, laddove il prestigio sta nel donare, e il dono rappresenta il motore che instaura le relazioni. Si è tentati di distinguere nettamente tra le nostre società attuali, cosiddette utilitaristiche, dove il dono è considerato talvolta come un'ipocrisia, e alcune società antiche, che seguono logiche non utilitaristiche, dove il dono è preponderante e il profitto individuale passa in secondo piano. Puntualizziamo però che non utilitaristiche non significa gratuite, in quanto il dono non è mai gratuito, giacché chi dona si attende sempre un controdono. Parallelamente, per i beni e i servizi potremmo inserire, accanto al valore d'uso, basato sui bisogni che riescono a soddisfare, e al valore di scambio, basato sulla quantità di denaro o di altri beni e servizi che si riescono ad acquistare, un terzo tipo di valore, chiamato il valore di legame, basato cioè sulla capacità dei beni e servizi donati di creare relazioni sociali. Definiamo dono ogni prestazione di beni o servizi effettuata senza garanzia di restituzione al fine di creare, alimentare o ricreare il legame sociale tra le persone. Non so bene per quale motivo Piero mi dice: ho urgente bisogno di sapere che santo è oggi. Oggi è il 1 ottobre, mi sono preparato, oggi è San Remigio, motivo per cui, visto che le scuole fino al 77 cominciavano il 1 di ottobre, i bambini della prima elementare erano chiamati Remigini. Domani invece è il 2 di ottobre e per tutti quelli che fossero da quelle parti e ne avessero voglia, io alle 18 di domani, martedì 2 ottobre, sono a Padova, alla Feltrinelli, a presentare e a parlare un po' del mio libro, domani alle 18. Chiudiamo invece qui anche questa puntata. Io ringrazio tutti quelli che l'hanno resa possibile, a partire da Fabio Cantadori, Tiziano Bonini, Margherita Ina, che non c'è ma è sempre con noi, e Stefano D'Andrea. La storia di oggi era la storia di Caterina, e anche lei è un punto rosso su una mappa. Ciao, sono Vanessa da Roma. La storia di domani è la mia. È una storia che parla di un amore predestinato e di qualcosa che in fondo era stato tenuto nascosto perché doveva poi diventare una grande storia d'amore. Questa è la mia storia e io sono qui.